Lallu! E Beppe! Ehi! Buonasera! Buonasera, ya! Buonasera, attore! Ben risentito! Come si va? Sì, ma cosa vuoi fa? Aspetta, sono andato! A piedi? Eh? Come stai andando, questo? Sì, a piedi sono andato! Devi sempre andare seduto, no? Almeno qualche volta a piedi, no? Alleluia, bebe. Cosa vuoi fare? C'è il bacchino. Io ieri non c'ero, sono tornato tardi da Alghero, quindi no, non lo so se c'era anche ieri, ma oggi non lo so. Aspetta che lo chiamo. Attenzione, signor Bacchisio. Signor Bacchisio, non ti rispondi. Evidentemente è ancora impegnato. Non si è sentito quasi nessuno. Sono Luca. Poco fa, ma mi sono assentato che ci avevo gente. Sono stato un po'. Dopo c'era Leoncino anche. Così via, però dopo mi sono assentato, mi stavo guardando qui e sono spariti tutti e due. Dove erano più meglio? Evidentemente anche loro che avevano da fare a mio figlio. Ma chi già ancora non si sente? Ora ha faccendato anche lui. Vabbè. Anda bene. Ce la facciamo andare bene lui, però sto. Sto comandando. vabbè, un po' carino. Ma vediamo. Almeno un po'. Freddo c'è fuori ciò. Insomma, ha calmato quel vento, ha calmato, però sta bene. Non è come stamattina e stasera. Ieri sera ci hanno detto, dice che pioveva ieri notte, a distaccare l'antenna, dicevano che c'era una bufera in giro. A me mi sembra invece bufera di caldo, appena di vento oggi e basta. Cioè, io avevo distaccato tutto, dice che verso le 22 c'era qualche temporale in giro, ma mi sembra invece il temporale l'ha fatto a parte di cosa, dell'Inghilterra. Io non lo so, io non ho gente di questa cosa. Ma so sì, ma è strano per oggi, sì, c'era Luca ieri sera. Distaccate tutto, ma coricare per quello io l'ho distaccato invece. La notte era tranquilla, la giornata era tranquilla, ho stesso, per cui evidentemente ha fatto qualche altro posto e da lui ha fatto da bravo, va. Purtroppo io non ho sentito nulla. Aspetta un attimo. Io Giammarino non ho sentito nulla del coso. No? Ha messo sì, maestrale, però no, nel temporale non li ha messo qua in zona. Mira che c'era Luca ieri sera. Claudio l'ha detto. Ha detto Claudio, dice che era sentito su Meteo. Mi sembra anche un strano, ma dice lui l'ha sentito, l'ha letto, no? Ma la notte era tranquilla ieri notte, là. Appena il vento c'era, ma appena però, non era vento da avere paura, no? No, già ha messo maestrale con un vento di 60-70 km orari, ma non di più di tanto. Con abbassamento di temperatura di 10 gradi. Infatti, sembra che abbia 60-70, così che non era una cosa. Infatti mi è sembrata una cosa strana che io abbia letto così, un bel tempo. Vabbè. L'importante è che siamo tutti tranquilli, poi il resto vuol dire che tu hai detto così. Purtroppo cosa, il temporale è forte, non gli ha messo neanche al grande inteso, vedi. Sta arrivando una piccola perturbazione, però non è di quelle grosse, non è di questa perturbazione grossa come stavamo dicendo. No? Mettiamola magari sugli Alpi, in quella zona magari, senz'altro era la bufera di neve, perché era tutta neve in quella zona. Ma qua no, cazzo, oggi non era brutta la giornata, dai. Un po' di sole, un po'. Un po' nuvoloso. Comunque, stamattina mi ha fatto accrescere bicicletta qua stamattina. C'era un po' di venticello, ma non era vento forte, dai. Perché sta entrando, piano piano sta entrando. Comunque domani ce lo dovremmo aspettare più forte il vento. Con abbassamento di temperatura di 10 gradi ha messo da stanotte, ecco cosa è. Ma no? C'è ancora per lo scirocco, vedi? E' preso. Vabbè, sono già che faccio, però mi devo allontanare, anzi chiedo direttamente che sta venendo gente, per cui li approfittiamo, aspettiamo domani sera. Senta la macchina, me lo saluti, dai. Buon proseguimento, Antonio, sarà a domani, se coincide, chiudo. Ciao. Ok, ciao Gianmario, ci sentiamo domani.